You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, se è per questo, mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nudizzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando con loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Bentornati da Valentina Furlanetto e Indovina chi viene a cena. Benvenuti a questo appuntamento di Radio 24 che ogni settimana vi racconta la storia di una persona italiana che ha radici altrove. In questo caso parliamo di un cantante, di un rapper, adesso anche scrittore, per Chiare Lettere editore, ha pubblicato l'autobiografia romanzata Vivo per questo. E quindi do il benvenuto ad Amir Issa. Eccomi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Mamma italiana, papà egiziano, romano, ha scritto moltissime canzoni, ha cantato molte canzoni che voi conoscerete perché sono state anche, e le sentiremo anche durante la puntata, la colonna sonora di un famoso film pluripremiato, il film Scialla di Francesco Bruni qualche anno fa. Il suo primo album solista, Uomo di Prestigio, ha avuto molto successo e anche i successivi. Soprattutto direi la canzone Caro Presidente, che poi vedremo, un video appello che era rivolto allora al Presidente della Repubblica dedicato al tema dello Ius Soli, quindi la cittadinanza per chi è di seconda generazione. Più di mezzo milione di persone che vivono nascoste straniere in questa nazione. Ci sta Tania, ci sta Mir, c'è Simone. Una canzone che ormai Amir ha qualche anno e che però purtroppo è sempre attuale. Sì, purtroppo è sempre attuale, infatti è di qualche anno, come hai detto. Io sono nato in Italia, mio papà egiziano, mia mamma italiana, ho la cittadinanza, 18 anni l'ho presa facilmente, però diciamo quello che mi ha insegnato mia mamma da quando ero piccolo è di poter, se potevo aiutare qualcuno, di farlo, quindi anche se io ho la cittadinanza mi sono preso diciamo questo carico. Ho parlato a nome di tutti i ragazzi che sono nati in Italia e che hanno i genitori stranieri e che faticano ad essere riconosciuti anche dalla legge, insomma, dalle istituzioni. Cittadinanza adesso come nel resto d'Europa. Caro Presidente, caro Presidente, caro Presidente, caro Presidente. Caro Presidente, l'Italia con noi è più bella, siamo tutti coinvolti, ogni uomo su questa terra. Caro Presidente, caro Presidente, caro Presidente, caro Presidente. Amir ha scritto questo libro adesso, dalla musica alla letteratura, dicevamo, per Chiare Lettere editore, Vivo per questo, un libro che trovate in questi giorni sugli scaffali delle librerie ed è più che la sua autobiografia, direi che è un manifesto generazionale, è una storia, no? Sì, ma diciamo che poi in realtà quando uno racconta la sua di storia, io questa cosa l'ho riscontrata negli anni con la musica, senza saperlo sta raccontando la storia di tante altre persone che poi si rispecchiano in quello che uno racconta. Quindi io raccontando la mia nel mio libro, quindi raccontando la storia di un ragazzo che oggi ha 38 anni, che è cresciuto a Roma con un genitore straniero e ha vissuto anche tutto il cambiamento culturale che c'è stato nella città, anche a livello musicale, artistico, sicuramente ho raccontato la storia di tante tante altre persone. Ma so che prima di iniziare, per venire a cena da noi, cena tardissima ma molto interessante il menù che proponiamo, hai portato un piatto. Sì, ho portato delle fettuccine con il sugo e le polpette, che era quello che faceva mia nonna quando andavo a casa di mia mamma, quindi parlo della mia parte italiana. Io purtroppo non ho avuto legami con mio papà da quando ero piccolo e quindi sono cresciuto veramente con un'educazione religiosa cattolica, sono andato a scuola dalle suore e i miei ricordi che ho di cibo da quando ero piccolo erano le fettuccine al sugo che faceva mia nonna al paese, questo. Un'identità, come spesso accade, che è tutta italiana per i nostri protagonisti cresciuti qui come te, e un'identità quindi che tu ritrovi anche nei piatti che frequenti, mi pare di capire. Sì, assolutamente. Io sto scoprendo in questi ultimi anni le mie radici egiziane. Sicuramente c'è stato un periodo in cui le rifiutavo, ma prima o poi ritorna questa storia. Se tu hai metà della tua storia che è di un altro paese, quindi il mio sangue è metà egiziano, prima o poi, diciamo, come si dice, dovrò farci i conti. E devo dire che negli ultimi anni sento sempre di più il richiamo di queste origini. Sono stato in Egitto pochi mesi fa, perché faccio anche il reporter per un programma televisivo della Rai che si chiama Nemo. Sono andato in Egitto per la prima volta ed è stata un'esperienza veramente pazzesca, e sicuramente il mio viaggio continuerà in questo. Perché, prima di raccontare un po' qualcosa di più del tuo libro, perché hai deciso di passare dalla parola cantata alla parola scritta? Perché l'esigenza scrivere un libro anche corposo, insomma, un vero e proprio romanzo? Sì, perché nelle canzoni in 3 minuti e mezzo mi ero già espresso tante volte e, diciamo, bisogna essere sintetici. Quindi io molte delle mie canzoni le ritengo delle brevi storie da 3 minuti e mezzo. Sono un rapper che ha sempre incentrato tutto sul racconto, quindi sul messaggio. E dopo un po' di anni questa forma di racconto mi iniziava a stare un pochino stretta. E ho scritto centinaia di canzoni, quindi ho fatto decine di dischi, ed è arrivato in questo momento della mia storia, sentivo che scrivere un libro era una forma di racconto che mi dava più spazio per poter entrare nei dettagli, per approfondire meglio alcune storie che già avevo accennato in musica. Era tanto tempo che avevo quest'idea da parte, è arrivata questa richiesta dalla casa editrice e in 3 mesi l'ho scritto, perché è un libro che già esisteva dentro di me. Squilla ma è scialla, non ha suonato la sveglia ma è scialla, il mondo fuori che aspetta ma è scialla, quando tutto va secondo i piani scialla, il telefono squilla ma è scialla, non ha suonato la sveglia ma è scialla, il mondo fuori che aspetta ma è scialla, ai miei problemi ci penso domani, che scialla 24 ore su 7 giorni, talmente scialla che quando esci non sai se ritorni, e ogni momento è buono, è scialla sul tuo trono, ti senti un re un secondo prima eri steso giù al suolo, è scialla come Luca, è scialla come Prince, fino a qui tutto bene, come Said e Vince, è scialla perché tanto qua vivi una volta sola, sorridi, è scialla anche quando sei con l'acqua alla gola, è scialla come quando è grigio. Non c'è nulla di inventato, tutto è vero, però ovviamente la forma di narrazione a volte è stata un pochino, diciamo, come si può dire, come nel rap, è stata un po' pompata, questo va detto, perché io sono abituato in questo, diciamo, noi rapper poi prendiamo le storie e le raccontiamo con uno stile creativo ben definito, e questo qui è un tratto distintivo che ho portato anche nella scrittura del libro. Ci fermiamo brevemente e torniamo a parlare con te tra pochissimo. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor heart break. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! Sotto il sole, fuoco che riscalda, esplode se incrocia queste parole. Me li bevo sti infami come voce le Sprugen. Sono io il verdetto che ti incastra e non si discute. Nato in mezzo al fango, sputo ed esce fango. Ogni giorno io ne mangio. Ritorniamo con voi in onda sulle note di questa canzone di Amire Issa, rapper romano e ora anche scrittore. Ha pubblicato questo libro che è una autobiografia romanzata, Vivo per questo, per Chiare Lettere Editore. Una storia trascinante per la città di Roma, una storia vera, un romanzo che è anche la storia di una generazione attraverso le zone dove lavorano e vivono i writer, la cultura hip hop. Allora, raccontiamolo un pochino questo libro. Inizia con una scena di notte, arrivano l'ufficiale giudiziario per lo sfratto esecutivo, la polizia, in un appartamento a Roma. Sì. E ci sono due bambini e una mamma, no? E questi sì. Due bambini, un maschietto di 10 anni e la sorellina, e il bambino dice, è lui il protagonista, dice, ho 10 anni, stringo il mio fagotto di vestiti e mi vergogno, ho 10 anni e sono in strada di notte, in casa non possiamo rientrare, e adesso? E poi avanti di 30 anni ripercorre un po' la sua storia. E poi c'è tutta Roma, perché c'è tanta Roma in questo romanzo. Sì, io ho sempre percorso la mia città tantissimo a piedi, con i mezzi pubblici, e quindi veramente l'ho vissuta. Penso tanti chilometri sotto le suole delle mie scarpe appartengono alla mia città. Veramente ho viaggiato tanto, ma la mia città mi appartiene tantissimo. Posso riconoscere i quartieri dalle facce, c'è chi per vivere qui è pronto a fare carte false. Questa è Roma città dei papi e paparazzi, ne tengo il nome in alto in mezzo a troppi su chiacchiere. Questa è Roma, i campetti, le pische, i quartieri, i coatti, le guardie, le troie, i mestieri. Questa è Roma, i rioni, lo stadio, le bombe, le spade sotto al fiume, le strade, le spore. Questa è Roma, i campetti, le pische, i quartieri, i coatti, le guardie, le troie, i mestieri. Questa è Roma, i rioni, lo stadio, le bombe, se Roma. Mi ha colpito molto l'inizio per questa vergogna, un bambino che si ritrova in strada di notte per uno sfratto, e tu dicevi prima è la storia mia, ma è la storia in fondo di una generazione. Io ho sentito tanti ragazzi di successo o comunque che hanno trovato una loro strada di seconda generazione raccontare quando appunto erano piccoli e hanno spesso avuto situazioni di questo tipo. Sì, veramente, la vergogna è qualcosa che purtroppo mi ha accompagnato per tanti anni. Io ho avuto il coraggio di raccontare la mia storia in musica intorno ai 20 anni, quindi la storia di mio padre, ad esempio, che era detenuto per tanti anni, io ai miei amici a scuola non la raccontavo, mi vergognavo. Quando tu sei piccolo comunque hai paura di raccontare agli altri che tuo padre è un detenuto, che hai problemi in famiglia, hai paura di essere allontanato dal gruppo. Quando ero adulto ho avuto il coraggio di raccontarlo e la musica in questo è stata fondamentale. Il rap in questo mi ha aiutato tantissimo perché avevo capito che per me era terapeutico. Ogni canzone che scrivevo dove raccontavo qualcosa che era chiuso dentro di me da tantissimo tempo, stavo meglio. Era come averlo tirato fuori, metterlo su carta, guardarlo in faccia e affrontarlo. E quindi da quando ho iniziato ho continuato fino ad oggi. Raccontavi di tuo padre che è stato in carcere, della difficoltà di raccontarlo. Che cosa ti ha impedito di sprofondare in questo? Ma sicuramente è stata mia mamma. La figura di mia mamma in tutto il libro è l'eroe. Mia mamma mi ha dato una direzione, mia mamma mi è stato l'esempio. Si alzava la mattina, tornava la sera a casa con una forza enorme e mi ha trasmesso tantissimi valori. Mia mamma sicuramente ha bilanciato la mancanza di mio padre e mi ha dato tantissima forza. E devo dire che parlando con altri ragazzi che hanno avuto storie simili, spesso mi ci sono ritrovato anche in questo. Quindi devo dire la figura di mia mamma sicuramente. Invece il papà non è sempre una figura positiva, anche se c'è questa ammirazione per questo papà, almeno nel libro, nella parte romanzata, no? C'è questo immagine del papà davanti alla famiglia della mamma. Per mio padre, scrivi, i selvaggi erano loro, quella famiglia di ciociari di Pico che secoli di civiltà separavano da lui e il Sayed, nato ad Alessandria d'Egitto, la patria della più famosa biblioteca della storia dell'umanità. L'amore per mia madre aveva scavalcato ogni differenza e sarebbe durato una vita. C'era in questa immagine di questo immigrato, in quel caso, un orgoglio, nonostante la difficoltà a sentirsi parte di quella famiglia. Assolutamente, io in tutto il mio percorso, nonostante mio papà ha fatto degli errori, è stato in carcere per tanti anni, io mi sono sempre sentito di difenderlo comunque. Quando la famiglia di mia mamma comunque non lo faceva sentire a casa in qualche modo, io mi sono sempre sentito di difenderlo mio papà. Mio papà ha fatto degli errori purtroppo, ma non per questo è stato allontanato da mia mamma e da noi. Siamo sempre stati uniti fino all'ultimo, siamo stati una famiglia che si è amata fino all'ultimo, mia mamma e mio papà non ci sono più, ma sono stati un bellissimo esempio, quindi in questo anche mio papà è stato un esempio comunque. Nella famiglia di mia mamma non accettavano il fatto che lei avesse deciso di sposare un uomo egiziano, poi quando è stato detenuto è stato un motivo in più sicuramente per accusarla, e quindi in tutto questo io mi sono sempre sentito di difendere mio padre, sempre. Per la mia gente che fatica, che sogna una villa in Costa Rica, per la mia gente che non lascia i sogni che rincorre ogni giorno che passa, per la mia gente che fatica e vuole migliorare la sua vita, per la mia gente che non lascia i sogni che rincorre ogni giorno che passa. Oh, basta questa musica! Passo dopo passo, pezzo dopo pezzo, sono Stephen Curry quando schiaccia e fa canestro, il sogno americano di chi si è fatto da solo, verso in un'Italia ferma ancora Bobby solo, rap inossidabile, non canto come il volo, la strada sa chi sono. La storia che ci racconti è simile alla storia che viene raccontata nel libro, nel film da cui noi prendiamo spunto, Indovina chi viene a cena, che appartiene a un tempo così lontano, eppure evidentemente non è superata. No, evidentemente queste storie non si supereranno mai, nel senso la diffidenza che c'è verso l'altro quando non si conosce l'altro ci sarà sempre, c'è sempre stata. Io sicuramente non sono una persona razzista, non ho pregiudizi, ma anche a me può capitare di trovarmi in un posto che non conosco, vedere una persona che non conosco e avere paura. Quindi questo succede, fa parte della natura umana, però dobbiamo lavorarci tutti quanti, insomma, perché a volte basta uscire di casa, parlare con il tuo vicino di casa che magari ha delle origini diverse, che non è italiano, e trovare magari dei punti in comune, perché no, scoprire anche qualcosa di nuovo, renderci conto che il mondo non è fatto solamente di quello che abbiamo visto fino ad oggi, ma è molto di più, veramente molto di più, e bisogna avere anche un po' la curiosità di scoprire cose nuove, cosa che io ho e che ho continuamente, quindi non mi accontento mai, sono curioso, voglio conoscere persone nuove, culture nuove, e questo per me dovrebbe essere un messaggio che dovrebbe essere positivo per tutti quanti, insomma. Amir, dicevi che tua mamma è stata il perno della tua vita, io credo che anche la musica sia stata per te un veicolo. sicuramente la cultura hip hop, la musica, mi ha accolto. Quindi diciamo, quando io in casa avevo dei problemi, mio papà era detenuto, sotto casa, quindi a Tor Pignattara, la periferia, quello che mi offriva era andare in bisca, andare allo stadio, la cultura hip hop mi ha accolto, perché io quando andavo ad incontrare ragazzi che facevano il rap o che facevano graffiti o breakdance, lì non mi chiedeva nessuno dove è tuo padre, di che religione sono i tuoi genitori, da che quartiere vieni. Quindi sicuramente la musica e la cultura hip hop mi hanno salvato. La musica mi ha dato modo di esprimermi, di sfogarmi positivamente. Questa cosa va detta. Quando tu veramente vivi delle situazioni brutte in famiglia e non ti stai creando un personaggio come fanno tanti rapper, e non è la mia storia è vera, è tutta vera, la musica in quel caso può essere veramente una valvola di sfogo e ti dà un'altra direzione. A me ha dato veramente un futuro, ha dato un lavoro, grazie alla musica rap oggi sono qui anche, ho scritto anche questo libro, quindi sicuramente anche quello, la musica. Una musica, quella rap, per cui una storia così difficile poteva essere una medaglia al valore. Ma diciamo anche questo però va sfatato, è un po' un mito che c'è, che intorno ai rapper, tutti i rapper vengono da situazioni difficili, dalla periferia. Devo dire che oggi nel nostro periodo storico non è più così. Questo è le origini, nasce in situazioni difficili, ma oggi, devo dirlo, ci sono tantissimi rapper in Italia, anche di successo, che non hanno paura a dire che vengono da famiglie comunque che stanno bene e che non hanno avuto situazioni difficili alle spalle. Però diciamo, nell'immaginario collettivo, il rapper viene da situazioni di disagio. Io in questo, diciamo, proprio sono perfetto proprio per lo stereotipo del rapper, possiamo dirlo. Gira questa vita, piscio sopra ogni tua riga, cerco la mia via d'uscita e ogni mattina prego il sole e la natura, dare amore agli altri e stare bene, questa è la mia cura. Soldi quanto basta per comprare nuove sneakers, per mangiare sushi tutti i giorni fino a svenire. Apro gli occhi è sempre una benedizione, da quando ho aperto il libro ho spento la televisione. Stare bene, ridere e brillare sotto il sole, da Tor Pigna schiaccio il mondo sotto le mie suore. Per la mia gente che fatica. E tu sei stato anche un pioniere di questa ondata, di questa generazione di rapper, figli di immigrati, nati e cresciuti in Italia, che raccontano la propria vita in rima e raccontano anche le difficoltà, perché ora ce n'è più di qualcuno, no, che si sta affermando. Tu possiamo dire che sei stato, se non il primo, fra i primi. E poi c'è questo fenomeno così diverso invece, che non ha nulla a che fare col rap, che è Bello Figo, un provocatore, posso dire, in musica, no? E che talvolta viene frainteso. Cosa ne pensi di questo fenomeno, più che musicale, direi culturale, sociologico? Ma secondo me gli si dà anche un po' troppa importanza. A me fa ridere tutto lì. Lo vedo come un comico, ma in quello che lui racconta capisco le sue provocazioni, ma non lo associerei mai né a un rapper, perché comunque secondo me quello che fa a livello musicale non è di qualità, e poi non lo associerei neanche ai discorsi che porto io avanti da tanti anni con serietà, con professionalità. Tu sei molto impegnato, infatti volevo anche citarlo, hai collaborato con delle associazioni, collabori tuttora con delle associazioni antirazzismo, laboratori educativi musicali nelle scuole per combattere i pregiudizi, gli stereotipi. Tutto questo è importante nella periferia, immagino. Sì, è importante, devo dire, la mia attività non è legata solamente al razzismo, allo ius soli o alla cittadinanza. Quando io faccio dei laboratori in una periferia, chi viene a partecipare sono ragazzi che vivono in quel luogo e che vivono delle difficoltà. Non vado a scegliere come target i ragazzi di seconda generazione. Questo è qualcosa che mi ha trasmesso sempre mia mamma. Per me aiutare le persone che sono in difficoltà e i più deboli per me è una missione e lo farò sempre. Vado in carcere con la comunità Sant'Egidio, faccio un sacco di attività. Ma lo faccio semplicemente perché è il mio spirito, ero in difficoltà e qualcuno mi ha aiutato, quindi quando sono diventato adulto ho potuto dare indietro, l'ho sempre fatto e continuerò sempre a farlo, a prescindere dalle origini delle persone che sto aiutando, insomma. Un'ultima cosa, Amir, di recente abbiamo assistito a dei fatti di terrorismo molto pesanti e poiché sono stati compiuti in diverse parti d'Europa da persone di seconda o terza generazione, le due cose vengono talvolta associate in maniera sbagliata. Sicuramente c'è una fascinazione che possono subire i ragazzi che vivono in contesti disagiati, in periferia, che non hanno prospettive, che cercano un'identità. Ti è mai capitato di venire a contatto con persone che subivano questa fascinazione, e la sapresti spiegare? No, sinceramente non mi è mai capitato, perché sono veramente, io mi sento italiano e frequento tantissime persone anche che non hanno, che non sono di religione islamica, non sono musulmano, e quindi veramente non frequento, diciamo, una comunità a prevalenza di religione islamica, quindi non mi è mai capitato. Penso che queste persone siano delle persone che sono disturbate psicologicamente, a prescindere dalle loro origini. Io non penso che il fatto di essere di seconda generazione possa essere associato agli attentati terroristici. È qualcosa che fanno i media. Tanti pensano in questo modo, ma vi dico una cosa: quando c'è un attentato, la paura che ho io di prendere la metro, io, tutti i miei amici che hanno i genitori stranieri, è la stessa identica che hanno gli altri ragazzi che hanno i genitori italiani. Cioè, anche io quando vado in giro ho paura degli attentati, non perché mi chiamo Amir e mio papà era musulmano sono protetto da questi attentati, assolutamente, ho la stessa paura, e questo va detto, altrimenti si rischia quasi, diciamo, come dicevi tu, un'associazione automatica, seconde generazioni, terrorismo, Islam. C'è anche da dire una cosa, ci sono tanti ragazzi di seconda generazione che non sono di religione islamica, ma sono magari di religione cattolica, protestante, di tante altre, quindi per me la religione è un fatto che terrei proprio fuori dalla vita pubblica, nel senso è una cosa privata. Io non sono neanche stato battezzato, quindi, diciamo, in questo ho avuto la libertà di poter scegliere, ho le mie idee, ma non le sto a sbandierare, insomma, nelle mie canzoni, non ho mai parlato di questo, non è qualcosa che fa parte della mia vita, veramente. Amir, visto che hai iniziato questa carriera da scrittore, hai intenzione di proseguirla? Stai scrivendo qualcosa? Assolutamente sì, mi piace, mi piace tantissimo, ho già un'idea di un seguito. Sicuramente, mi piace l'ambiente, mi piace il fatto che i lettori hanno la pazienza di gustare comunque un libro, di leggerselo con calma. È diverso, è molto diverso dal settore musicale. Viviamo un momento storico in cui la musica è veramente diventata un fast food, quindi una canzone esce e dopo una settimana già non esiste più perché ce ne sono altre nuove. La vita di un disco, di un artista, è veramente breve, e invece nel libro, diciamo nella letteratura, sto trovando la stessa pazienza e la stessa calma che c'era nella musica 10 anni fa, quando io ho iniziato, e questo mi piace. Si va più tranquilli, si va più calmi, e si dà il tempo al pubblico di approfondire e di assorbire il libro. Scialla, il telefono squilla, ma è scialla. Non ha suonato la sveglia, ma è scialla. Il mondo fuori che aspetta, ma è scialla. Secondo i piani, scialla, il telefono squilla, ma è scialla. Non ha suonato la sveglia, ma è scialla. Fuori che aspetta, ma è scialla. Ai miei problemi, hey, ci penso domani. Tutto a posto quando è scialla, brillo sotto il sole. Vivo per questo, Amir Issa, a Indovina chi viene a cena. Grazie per essere stato con noi. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a tutti voi per essere stati in ascolto. Filippo Aureggi per la parte tecnica. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre sulle frequenze di Radio 24. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao. You've got to give a little. That's the glory of love.